49 di martedì 1 febbraio 2005. Temperatura ancora molto rigide qui nel centro-sud, che è una zona geografica di grande utilità per i meteorologi, così come esiste anche il centro-nord, c'è una certa facilità nel creare nuove entità di geografia fisica. E io molto spesso, durante queste escursioni lungo il quasi Cile, mi scaglio contro la bruttezza assolutamente imperdonabile di questo mondo che la Xara si trova ad attraversare tutte le mattine, però la verità è, si fa strada, diciamo, un sospetto che comincia a prendere forma soprattutto da quando entro nella prospettiva di cambiare lavoro e quindi cambiare itinerario e forse non essere più pendolare un giorno. Negli ultimi 2 anni ho condotto tutta una serie di colloqui, alcuni dei quali anche all'estero, soprattutto in Svizzera, per una serie di motivi e di circostanze che mi spingono verso quella parte dell'Europa. Solo fatto di entrare nella prospettiva di non dover essere più pendolare mi fa vedere tutto questo tragitto con uno sguardo diverso. Non voglio chiamarla nostalgia anticipata, che poi tra l'altro sarebbe del tutto frettolosa, in quanto sono ancora in larghissima misura legato in modo coatto questa strada, a questo paesaggio così osceno, ma il problema è un altro. Il problema è che quando si attraversa questa strada tutti i giorni, più o meno alle stesse ore, con gli stessi suoni, succedono le stesse cose, si vedono gli stessi edifici, le stesse facce, lo stesso bar, lo stesso giornalaio, tutti i giorni che il buon Dio manda in terra, dopo un po' si è parte di tutto questo, cioè si fa parte del paesaggio, si è parte del percorso che si odia, e quindi si diventa, questo è un processo assolutamente inevitabile, si diventa beceri al 100%, con tutta la propria autovettura, anche forse con gli argomenti e i contenuti di cui si è disposti a parlare davanti a un microfono. E quindi penso automaticamente chissà quante persone che si trovano a fare la stessa cosa tutte le mattine considerano la Xara parte di ciò che odiano, perché la vedono parcheggiata nello stesso punto, alla stessa ora, tutti i giorni. Direi che questo è un pendodelirio in piena regola, però probabilmente, chissà, se dovessi veramente andare un giorno a lavorare, per esempio, in Svizzera, se mi ritrovassi magari a lavorare in un'azienda algida e autoreferente, con brevissimi tratti, a piedi magari da percorrere in una città organizzata con trasporti pubblici che funzionano e così via, un bel giorno potrei ritrovarmi a rimpiangere queste 2 ore che passo in questo mondo assolutamente orrendo. E questo forse perché c'è un legame filiale che si viene a stabilire tra il pendolare